nonno guidava un somarello, io ho sempre guidato un'automobile, mio figlio guiderà un razzo a propulsione, il futuro è sempre in evoluzione. Amen, guidava un cammello, suo figlio gli ha sempre guidato un'automobile, suo figlio guiderà una spaziosa astronave spaziale, l'imam darà un permesso speciale per mangiare salame, per mangiare salame, per bevendo ritornello, io guido un cammello, bevendo ritornello, io guido un somarello. E monteremo gli animali in carovane tre tribali, pascoleranno gli animali da Wall Street Street a Piazza Affari. Che ti passa la fame, 300 milioni di panda, Marchionne comincia a sognare, mio padre è un celebro leso, mio padre è un disadattato, si guarda un botto di fiction, ma non capisce mai lo sceneggiato. È bello ritornello, il 68 già aveva speranza, speranza. 77 già aveva coerenza, Ferrara già sente la panza, sembra la dea dell'abbondanza, la legge dello sviluppo infinito, tu vuoi dare di gas ma il gas è esaurito. La legge dello sviluppo infinito, tu vuoi dare di gas, se vuoi dare di gas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. E monteremo gli animali, animali in carovane tre tribali, tribali pascoleranno gli animali, animali da Wall Street a Piazza Affari. Thank you.